Europa 24. With the conclusion of the Lithuanian presidency, the European Union ended the year 2013 on a high note. Il presidente della Commissione europea, il portoghese Barroso, questa mattina al Parlamento di Strasburgo, riunito nella plenaria per di fatto quello che era ufficialmente un bilancio del semestre di presidenza lituano, quindi quello che si è concluso il 31 gennaio. Adesso siamo entrati nella fase a presidenza greca, lo ricordiamo, il prossimo semestre, più volte l'abbiamo detto, sarà quello a presidenza italiana. Ma sentiamo allora con Barroso, che abbiamo nel nostro sottofondo. Barroso sostanzialmente ha parlato del semestre che verrà, ha detto: sono sicuro che il 2014 sarà un anno positivo di cambiamenti per l'economia europea, ha detto, ha invitato a lavorare insieme perché ciò avvenga prima possibile. La recessione, ha detto il Presidente della Commissione, è alle spalle, ma non c'è spazio per il compiacimento e ancora non possiamo dire che siamo veramente fuori dalla crisi, perché la disoccupazione è ancora troppo alta e alle imprese, specialmente le PMI, mancano i mezzi finanziari per investire. Nel suo intervento, nel dibattito sul lavoro del semestre appunto lituano che si è concluso, Barroso ha ricordato che ancora fino a non molto tempo fa qualcuno prevedeva l'implosione dell'euro e persino la disintegrazione dell'Unione Europea, ma ora, ha concluso, con il recupero della fiducia dei consumatori e degli investitori, è invece attesa la crescita. E a proposito di temi economici, in penna la produzione industriale a novembre rispetto a ottobre nella zona euro, rallenta invece in Italia. In Eurolandia a novembre la produzione è salita dell'1,8%. Ancora economia in primo piano, ieri sera al Parlamento europeo, dunque nel corso di queste giornate, un focus sul tema molto delicato della Troika. Sentiamo. Finisce sul banco degli imputati, almeno virtuali, la Troika. A difenderla ci ha pensato, così nell'audizione di ieri sera all'Europarlamento, il commissario all'economia Olli Rehn, il guardiano dei conti che dell'appoggio alle politiche di austerità ha fatto il tratto distintivo del suo mandato. La Troika, composta da Commissione, BCE ed FMI, che ha gestito i programmi di assistenza finanziaria a 5 paesi dell'Eurozona, non ha mai imposto le sue condizioni, ha detto Rehn a Strasburgo. Le condizioni sono concordate coi paesi beneficiari e i governi sono responsabili davanti ai parlamenti, ha aggiunto Rehn, non senza una frecciata. I programmi della Troika non sono stati l'inizio dei problemi, ma l'inizio della loro soluzione. Per questo, ha concluso, l'esperimento ora funziona ragionevolmente bene. E a riprova Rehn ha portato il caso irlandese, con Dublino che la scorsa settimana è tornata a finanziarsi sui mercati. Più in generale, il commissario europeo, candidato a succedere a Barroso da ottobre, si è difeso dalle accuse di aver costantemente sbagliato le previsioni macroeconomiche, rispondendo che le crisi italiana e greca hanno creato tali incertezze politiche da vanificare ogni possibilità di anticipazione. Infine un'occhiata all'unione bancaria. È cruciale avere entro fine marzo l'accordo tra Parlamento e Consiglio sul meccanismo di risoluzione. Completare l'unione bancaria è fondamentale per avere un sistema solido che faccia il suo mestiere di finanziare l'economia reale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto sul fronte del grande tema dell'allargamento vanno avanti le trattative, il dialogo coordinato appunto a livello di Unione Europea tra Serbia e Kosovo. Ieri il premier serbo Ivica Dacic ha incontrato il collega, l'omologo kosovaro Hasim Thaci e il capo della diplomazia UE Catherine Ashton. Hanno dunque deciso di aggiornare i lavori al 28 gennaio prossimo. Con l'altro rappresentante dell'Unione Europea Catherine Ashton abbiamo concordato di proseguire il dialogo sul Kosovo. Insomma, nonostante le difficoltà e gli scontri legati al voto ancora dello scorso anno a questo punto, il dialogo prosegue e continua il ruolo di appunto di facilitazione svolto dall'Unione Europea. Direi che con questo è tutto, ora le notizie sportive, noi torniamo domani. Europa 24 in collaborazione con Euronet Plus.